In linea con noi, saluto subito Dalila Di Lazzaro. Ciao Dalila. Un bacio a tutti, buongiorno. È un grande piacere essere ancora una volta con voi. Senti Dalila, un nuovo libro, L'angelo della mia vita, che racconta una storia straordinaria di sopravvivenza alle sfide durissime che la vita ti ha dato. Ci dà, perché non sono l'unica. Diciamo che nella vita purtroppo fa parte nella vita il dolore, non è solo il piacere, purtroppo nella vita si ha un percorso che ogni tanto dietro l'angolo ci aspetta sempre qualcosa al varco e purtroppo a me e come a tante altre mamme succede che un sabato sera non tornano più i ragazzi e questo l'ho voluto dedicare proprio a questo senso di vuoto che rimane dopo una morte, ad esempio come a me, del mio caro figlio. L'ho dedicato a tutte le donne, a tutte le famiglie che hanno avuto questo grande dolore. Un dolore, Dalila, che io penso da madre sia quasi contro natura, no? Non si può fare altrimenti che dare un senso alla nostra vita diversa e forse questi segni, da volerli vedere mutare nel nostro cervello come un fatto di prova importante nella nostra esistenza, che qualcosa possa cambiare e dare magari possibilità diverse, non so, non bisogna pensare che tutto rimane d'eterno, purtroppo succedono queste cose e cercare di capirle con il dolore dentro è importantissimo. Non è solo rivolto al nostro egoismo, alla nostra voglia di tenere le cose, ma bisogna lasciarsi andare e pensare che queste cose avvengono perché hanno qualcosa di divino al di sopra di noi che noi non potremo mai capire. Noi le vediamo come disgrazie enormi, che in effetti sono, ma dare un senso a questa cosa qui della morte, io ho voluto decifrarla con questo libro. Ovviamente un messaggio di speranza a tutti coloro che leggono questo libro, che hanno avuto magari un'esperienza come la mia. E attraverso la scrittura, questo libro che è molto bello, tu sei riuscita a indirizzare lo sguardo nella direzione giusta, no? Per vedere altre cose. Bisogna avere come un terzo occhio in queste circostanze, che a volte è il cinismo della vita che ci assorbe con tutti i problemi, con tutte le cose, ci capita una cosa così grossa che non riusciamo a cadere proprio in un dolore immenso, ma non riusciamo a darci una spiegazione, no, a tutto questo. Io ho voluto cercarla questa spiegazione, magari avendo a mio favore il tempo che ho passato a letto, tanti anni con questo trauma che ho avuto al collo, e stranamente, non lo so, è come essere stata in un Tibet, dove ho voluto, come un ritiro spirituale, non so. Poi c'è lo scettico che dirà, vabbè, uno adesso fa delle enfasi, cioè si vuol far trovare magari a pensare queste cose. Non danno grande peso le persone che non hanno questa sensibilità a certe cose. Ovviamente chi ha la sensibilità di capire e di vedere e di scorgere e di intuire è un grande dono. Sì, è un dono anche perché in questo modo tu sei riuscita a sopravvivere. Sì, io mi sono accorto che non sarò mai più sola, perché lui è sempre comunque vicino a me. In qualche maniera lo dimostra in una maniera sfacciata, in una maniera quasi, non so, incredibilmente, inverossibilmente. Io sono una donna che non ci credo, non mi faccio le fantasie giusto per farmele, però c'è una profondità d'animo che, per quello che ho avuto nella vita, per come ho vissuto, che non so, sono riuscita a recepire questi segnali d'amore che sono manifestati in maniera tante volte veramente miracolosa, eclatante, che veramente mi venivano le lacrime di gioia. Senti, cioè, Dalila, tu hai anche nel tuo libro precedente raccontato le tue fatiche, il tuo lavoro ti ha dato molto, ti ha tolto molto, insomma tu sei stata tu dici giustamente come con me, con tante altre persone, però una donna che è stata messa a prova, dura prova, no? Dalla vita, grande successo, poi silenzio, un lutto così grande, no? Disumano nella tua vita, degli amori, alla fine tu sei sempre riuscita a ritrovare la forza per ricominciare. Io so che questo messaggio è arrivato a molte donne che ti hanno scritto. Sì. Ecco, cioè sei riuscita proprio attraverso i tuoi libri a creare un filo, no? Un contatto importante con le donne. Cosa ti scrivono le donne? Prima di tutto mi vogliono un bene, io riverso quel bene che mi danno, lo riverso attraverso i miei libri, ma un affetto così meraviglioso, così spettacolare, così tanto, così mi riempie di gioia certi buchi che ho nel mio cuore, però realmente c'ho una sensazione, soprattutto le donne, che mi vogliono molto bene. Questa è una cosa che gratifica, vogliamo dire una parola super un po' così, ma in effetti mi dà un calore immenso, perché la donna ha questa sensibilità, la donna è anche una donna che può criticare, puoi stargli anche antipatica, perché magari se sei un po' carina, non so, invece io nonostante tutto vedo che mi seguono con un amore, con un affetto, che la bellezza è l'ultima cosa che guardano, e invece gli uomini no. Gli uomini no, d'altra parte anche la bellezza, no? È una cosa da apprezzare, conta anche quello. Sì, però a volte questa eccessiva bellezza diventa un'arma a doppio taglio. A volte ti porta a un isolamento, non è così semplice gestire neanche la bellezza. Senti Dalila, io volevo chiudere questa nostra intervista con un'indicazione, entrare proprio nel tuo quotidiano. Ci sono certi giorni che iniziano storti, in cui noi ci alziamo e ci sentiamo il cuore pesante. Naturalmente è capitato anche a te. Andiamo nel tuo quotidiano. Ti alzi alla mattina? Io mi alzo, sì. Diciamo che quando il cuore è innamorato, la persona è vicina a un calore di persone care, la mattina è sempre per me primavera. Quando arriva un po' l'autunno, quando queste cose vanno a sfiorire e a mancare, per me, come donna sensibile, donna di tutti i giorni, come tutte le signore che mi ascoltano magari, io credo che quando una donna è innamorata supera ogni cosa. E poi secondo me è opportuno nella vita, per me, semplicemente accontentarci delle piccole cose e non calcare il palcoscenico della vita senza mai avere il coraggio di togliersi la maschera, di dire ai propri compagni, alle proprie persone che si ama e ci si tiene vicini, di togliersi questa maschera e di dargli la possibilità di capire questa grande importanza che può essere o la famiglia o il tuo compagno, perché il momento che non abbiamo più questo dialogo non ha più senso niente, diventa tutto pesante, no? E allora se avete questa vita in comune con qualcuno che veramente vi è vicino tutti i giorni, abbracciateli, dategli un bacio, perché è la cosa più importante di questa vita. Io ringrazio Dalila Di Lazzaro, l'abbracciamo anche noi. Buona giornata, grazie. Buona giornata Dalila. A tutti, grazie.